piace per dirti che t'amo. Urlare non so, amor, amor, così sottovoce, cantando ti chiamo. Gridare non so, amor, amore, nel cielo azzurro. Dal cuore per te canterò, amor, sei tu l'amor che ho verso luce saprò. Per te canterò.